America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Redresser la France dans la justice. Ouvrir une voie nouvelle en Europe. Il presidente francese François Hollande sarà alla Casa Bianca per un incontro con il presidente Barack Obama e il primo incontro fra i due sarà ovviamente un dialogo molto importante. Dunque il messaggio politico degli elettori in qualche modo è passato. Gli Stati Uniti fra l'altro premono da tempo sull'Europa perché si possa passare a una politica di crescita e le ricette macroeconomiche le conosciamo. Sarà necessario avere un maggior stimolo monetario, una riduzione della burocrazia, però non è soltanto di quello che si parla. Si ritiene che per attirare per esempio gli investimenti stranieri in Italia, per accelerare la propensione all'investimento e comunque il dinamismo industriale di un paese, ci vuole anche un sistema giudiziario che sia straordinariamente efficiente, equo, coerente e che dunque non ci si affidi alla casualità a volte di un giudizio. Di questo devo dire sento molto parlare gli investitori americani, i quali magari decidono di non venire in Italia proprio perché non si sentono garantiti proprio dal punto di vista giuridico. Ecco, io ho registrato ieri una chiacchierata con il ministro della giustizia Paola Severino, che è stata a New York qualche giorno, che ha visitato Wall Street, ha visitato il New York Stock Exchange e a lei ho fatto qualche domanda provocatoria in materia. Sentiamola. Buongiorno ministro. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ecco ministro, dunque intanto lei mi conferma che c'è questa preoccupazione da parte degli investitori americani per certe lentezze, certe problematiche del nostro sistema giuridico? Ma vede, più che parlare specificamente di preoccupazioni degli investitori americani, io direi che in linea generale un investitore quando deve decidere dove localizzare un'impresa o un investimento tende a scegliere paesi nei quali la giustizia ha dei tempi ragionevoli e nei quali vi è una tendenziale certezza delle pronunce o del diritto in generale. E allora il governo italiano e in particolare io come ministro della giustizia ho tenuto conto di queste esigenze e nei progetti di riforma del Ministero della Giustizia ve ne sono alcuni che mirano proprio ad attrarre investimenti in Italia, anzi direi che più di progetti si tratta di leggi già in vigore, tutte le leggi sulla accelerazione dell'itinerario della giustizia hanno avuto già un itinerario parlamentare e in particolare quella che più mi stava a cuore presentare qui a New York era la riforma sul Tribunale delle Imprese. Sono stata in particolare ieri al New York Exchange dove ho presentato agli investitori questa novità che è volta proprio a creare per le imprese un tipo di processo più celere e nel quale vi sia più prevedibilità del risultato. Lei crede che possa esserci una garanzia sulla consistenza del giudizio, sulla coerenza del giudizio? Senz'altro sì, nel senso che noi abbiamo costituito attraverso il Tribunale delle Imprese un tribunale estremamente specializzato attraverso giudici che si occupano esclusivamente di quella materia e che quindi con la specializzazione nella materia delle imprese acquisiscono quella particolare sensibilità alla materia che consentirà loro di emanare sentenze che, tenuto conto della peculiarità della materia, saranno certamente sotto il profilo della certezza del diritto più vicine ad un modello di tipo anglosassone. Il modello di tipo anglosassone è basato sul case history, cioè sui precedenti. Noi abbiamo un sistema diverso, però certamente un giudice specializzato tenderà in una certa materia a reiterare le proprie decisioni, dunque ad assumere un orientamento giurisprudenziale costante nel tempo. Che sensazione le ha dato essere dentro la borsa c'era, a New York? C'era una grande curiosità perché dopo l'apprezzamento che era stato certamente manifestato al presidente Monti nel corso della sua visita a New York, vi era anche la curiosità di vedere quanto di ciò che era stato prospettato si fosse poi trasformato in legge o comunque in provvedimenti concreti. E devo dire che l'aver potuto verificare che nel frattempo vi erano state una serie di iniziative normative, tra cui quella del Tribunale delle Imprese, che ormai è una realtà perché la legge è stata approvata e entrerà pienamente in funzione da settembre di quest'anno, credo che abbia enormemente rassicurato gli investitori ed abbia costituito certamente un'attrattiva. Ecco, volevo chiedere su questo qual è stata la domanda più difficile che hai ricevuto. Ma quasi le domande non erano difficili, erano esattamente quelle che mi sono state poste oggi, e cioè come avete pensato di affrontare il problema della durata del processo delle imprese, per le imprese, e il rafforzamento della certezza del diritto, e ho potuto dare loro le stesse risposte che sto dando adesso a voi, entrando forse un pochino più nei particolari tecnici, specificando perché per fare questo naturalmente abbiamo bisogno di impiegare risorse, che per impiegare queste risorse ricorreremo anche ad una revisione della geografia giudiziaria, e cioè un accentramento nei tribunali più importanti di quei magistrati che potranno affrontare il processo per le imprese. Esemplificando, nel momento in cui dovesse esserci un contenzioso, in che modo lei prevede che possa risolversi magari nel giro di pochi mesi o di poche settimane? Beh, intanto noi vogliamo raggiungere la media europea, che è quella della durata di circa un anno per un processo di questo tipo. Naturalmente la procedura non cambia, cioè occorrerà arrivare anche in questo caso dal giudice in un tribunale ordinario, però bisognerà andare nella sezione specializzata per le imprese, dove la procedura sarà certamente più celere, proprio perché vi sarà un giudice specializzato al quale la soluzione dei quesiti posti dalle imprese sarà certamente più facile e avrà un percorso più snello. Negli Stati Uniti c'è un rapporto, diciamo così, abbastanza diretto fra Stato e cittadino. Il cittadino può citare in tribunale lo Stato e il giudice è una terza parte. Ecco, da noi, come sa, ci sono molti ritardi, per esempio nel rimborso dell'IVA. Secondo lei, da un punto di vista giuridico, questo è un errore? È una cosa che può essere rimediata? Come si può rimediare? Ma vede, noi vorremmo evitare di risolvere i problemi affollando i tribunali. Quello che occorre trovare è un meccanismo di accelerazione del rimborso dei crediti, e su questo credo che il Ministro dell'Economia sia strenuamente impegnato. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive in tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. La voglio dedicare a Chuck Brown, grande chitarrista considerato il padre della go-go music, che ci ha lasciati purtroppo all'età di 75 anni. Di Chuck Brown, Busting Loose. Da New York è tutto, Mario Fratello vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.